Allora, benvenuti a tutti alla lezione del Kollel Torah a Roma. Oggi studiamo Hasidut e stiamo proseguendo sul percorso dell'anima nel conteggio dell'Omer. Abbiamo visto la scorsa volta i vari aspetti delle sette Sefirot per ciò che riguarda il aspetto negativo, dove si esprime l'anima animale. Attraverso le sette Sefirot, abbiamo un po' cercato di capire che le sette Sefirot in realtà non sono nulla di estremamente occulto, mistico, eccetera, bensì è semplicemente un modo di esprimere, di definire quali sono le varie modalità di espressione e di rapporto interpersonale che può esistere tra le persone, come effettivamente si trasmette qualcosa da una persona all'altra. E ci sono varie fasi, e queste fasi esistono anche all'interno della persona in diverse modalità. La stessa cosa può esistere nel bene e nel male. Come ogni cosa, la maggior parte delle cose della nostra realtà, della nostra esperienza di vita, che sono degli strumenti che noi possiamo far, diciamo così, incanalare o indirizzare in una direzione o l'altra, come per esempio il primo delle sette Sefirot, la prima delle sette, il Chesed, quello che abbiamo definito come amore. E allora questo amore, quindi questo affetto, questa vicinanza, questa apertura verso, per esempio, un atteggiamento, può essere nel bene o nel male, può essere un'apertura verso un atteggiamento negativo, quindi questo significa usare il chesed nel male, o può essere un atteggiamento verso una cosa positiva e questo significa usare il chesed nel bene. L'approfondimento legato all'Omer è particolarmente dettagliato perché va e ci porta in un viaggio attraverso sette Sefirot, così come ognuna delle sette è a sua volta segnata dalle altre sette. E noi abbiamo fatto l'esempio proprio di tutto l'elenco di una delle Sefirot, cioè sempre quella di Chesed, così come è segnata da tutte le altre sette nel negativo, e ora vedremo invece lo stesso percorso del Chesed, così come è segnato da tutte le altre Sefirot, ma nel bene, nella Kedushah, nell'arco dell'apertura verso HaKadosh Baruch Hu e la sua volontà. Allora vediamo un po'. Chesed, quando parliamo del Chesed nel contesto non dell'anima animale ma dell'anima divina, allora Chesed hu ahava tivit sheyesh la nefesh ha'elokit la'elokut. Chesed rappresenta l'amore naturale, la vicinanza naturale che esiste proprio per natura nell'anima divina. Amore naturale significa un amore che non nasce spontaneo o che non nasce a causa di qualche cosa d'esterno che fa sì che si arrivi ad amare, bensì è simile all'amore tra figli e genitori. È una cosa che c'è per natura, che può essere più o meno evidente, ma è sempre in qualche misura presente. Perché? Perché fa parte della natura. Quindi l'anima divina, essendo appunto un'anima divina, ha un trasporto naturale verso ciò che è il divino, verso ciò che è la volontà di HaKadosh Baruch Hu. Allora, Chesed dell'anima divina rappresenta questa idea. Quando parliamo della prima fase, e cioè Chesed, Shebe Chesed, il Chesed proprio, diciamo così, concentrato, il concentrato di Chesed, il Chesed del Chesed, stiamo parlando di una situazione in cui questo amore di cui parlavamo è effettivamente in evidenza molto chiaramente. Quindi non solamente è presente, non solamente esiste sotto la superficie, ma quando si dice Chesed Shebe Chesed, si sta parlando del Chesed, dell'amore verso il divino che è in maniera chiara ed evidente, cioè quando la persona prova davvero questo gesto in maniera cosciente, in maniera chiara, e ora vediamo anche fino a che punto. Un esempio può essere Abramo Avinu, che era così. Sì, un esempio può essere Avraham Avinu, che si può dire forse era sempre in questo stato di essere, era sempre in questo, aveva sempre questo trasporto aperto, evidente verso HaKadosh Baruch Hu. Ma sicuramente è un buon esempio, ma può anche essere ognuno di noi in determinati momenti può essere evidente, potrebbe essere più o meno evidente questo aspetto del nostro rapporto con Hashem. E in particolare qui si fa un esempio tratto da quanto è scritto e noi recitiamo 2 volte al giorno nello Shema. Nello Shema troviamo la mitzvah di amare, ve'ahavta et Hashem Elokecha, amerai il Signore tuo Dio. Questo amore come si deve esprimere? Lo dice lo Shema stesso e lo definisce in tre maniere. Bechol levavcha, uvechol nafshecha, uvechol meodecha, che si traduce con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue possibilità. Questa è la traduzione classica di queste tre definizioni. Quando si dice Bechol Levavcha, significa un amore del cuore, tutto il tuo cuore, è qualcosa che è ancora dentro al cuore. Quando si dice Bechol Nafshecha, con tutto il tuo animo, tutta la tua anima, allora è un amore che si espande in tutte le varie facoltà della persona. Non è limitato solamente a qualcosa di interno al cuore, come abbiamo detto prima, a volte l'amore sta sotto la superficie, questo significa con tutto il tuo cuore, invece con tutta la tua anima significa in tutte le varie facoltà in cui si esprime la tua anima. E questo è Chesed Shebe Chesed, il Chesed nella maniera più concentrata, più evidente, più chiara. L'amore verso Hashem nella maniera più chiara. Cos'è l'effetto di questo Chesed? L'effetto di questo amore è che se la persona è così trasportata con questo amore verso HaKadosh Baruch Hu, automaticamente non è più trasportata da un amore verso le cose mondane. Il cuore va o a destra o a sinistra, o avanti o dietro. Quindi, qualora la persona fosse consumata da una fiamma di amore verso HaKadosh Baruch Hu, come un innamoramento, esattamente, e tutto il Shira Shirin, tutto il Cantico dei Cantici si basa su questa metafora, quindi, Ki cholat ahava ani, è scritto nel Shira Shirin, sono malato di amore. Malato di amore significa non posso pensare a nient'altro. Allora è chiaro che la persona che combatte, per esempio, con delle distrazioni o con delle tentazioni che sono di questo mondo, come questi buonissimi cornetti che Giuseppe, ti ringrazio, che hai portato a noi stamattina, Yosef, allora queste tentazioni, queste distrazioni, è come se non esistessero nel momento in cui la persona è consumata da un forte trasporto amorevole verso HaKadosh Baruch Hu. In quella situazione la persona non deve più lottare con le distrazioni, la persona non deve più andare a dire: ah, ma questo pensiero mi sta disturbando, come faccio? Non riesco a uscirne fuori, eccetera, eccetera. No, il soggetto non è più il problema che ti distrae o ti disturba, il soggetto è il tuo trasporto verso HaKadosh Baruch Hu e quella distrazione automaticamente sparisce. Non è più una cosa con cui bisogna lottare, perché? Perché ti poni più elevato, ti poni su un altro livello dove quello non esiste proprio. E quindi questa è tutta una filosofia molto importante e gran parte della filosofia hasidica, si può dire, viene definita da questo tipo di pensiero, cioè mentre altri regimi di pensiero si dedicano molto al come superare le problematiche, a come togliersi i pensieri negativi, le distrazioni, le tentazioni, eccetera, il pensiero hasidico non nega questo aspetto, ma pone una grande enfasi sull'inserimento. inserire più luce che automaticamente fa sì che l'oscurità sparisca. C'era un detto Yiddish che diceva: l'oscurità non si può togliere con una scopa, basta accendere la luce. Sì, volevi fare una domanda? Ah, ok, bene. Allora, tra l'altro, se qualcuno ha delle domande, può farle anche virtualmente. Cercherò di rispondere il prima possibile. Allora, questo è il Chesed Shebe Un Chesed. innamoramento che può arrivare spontaneo o che va cercato? Beh, questo in realtà è una domanda importante. Questo innamoramento, se esiste spontaneamente o se va cercato? In realtà, laddove nelle opere di Hasidut, dove si approfondisce molto questo discorso, tra l'altro anche nel Tanya, esistono entrambe le possibilità, esistono entrambe queste modalità. Probabilmente per le persone comuni, diciamo come noi, non parliamo dei grandi tzaddikim, probabilmente è più facile in qualche maniera tirare fuori qualcosa che è già presente e aiutare questo sentimento ad espandersi di più di quello che è prima, e non far nascere qualcosa di nuovo. Questo anche esiste e può esistere, ma è molto più difficile. Sarà un detto perché a volte se io sarò per lui, lui sarà per me, per questo io cerco Anile do di vedo di lì, sempre il Shira Shirim. Shira Shirim, sì, giusto? Cioè, se c'è il trasporto dalla persona verso il divino, allora c'è anche un tipo di risposta dal divino verso la persona. Infatti, qualcuno lo deve andare a cercare, no? questo stiamo dicendo, tu lo devi andare a cercare e poi lui ti risponde. Ora passiamo alla prossima fase, che è la Gevurah Shebechesed. L'aspetto rigoroso. Se Chesed è amore, allora Gevurah, abbiamo detto anche l'altra volta, se Chesed è amore, Gevurah è odio, è il contrario. Cosa c'è da odiare? È chiaro che se tu ami qualcuno tantissimo, non puoi vedere chi gli vuole male. Quindi c'è un aspetto di odio che è racchiuso all'interno dell'amore. È un amore cieco, dove se tu sei innamorato, qui nel nostro contesto parliamo dell'amore verso il divino, allora chi si pone contro c'è un sentimento negativo nei suoi confronti. Questa è la Gevurah Sheh Bechesed. Non deve essere per forza una persona, può essere un'idea, può essere una filosofia, può essere un modo di pensare, e può essere tutte queste cose e altre cose ancora. Il senso è che all'interno dell'amore esistono altri aspetti. Prima abbiamo parlato del Chesed Shebe Chesed, l'amore incondizionato e totalmente concentrato solo su quello, ma in realtà è comprensivo di altre cose. Cosa? Prima di tutto la Gevurah, che è teoricamente un sentimento opposto al Chesed, quindi l'odio è contrario, è il contrario dell'amore, ma ne fa parte. Potrebbe farne parte in questo contesto. Parliamo della Gevurah del Chesed, che significa il non poter sopportare chi odia o chi in qualche maniera va contro quello che è il soggetto del tuo amore. Ci sono gli aspetti negativi di questo amore, in un certo senso. È sempre considerato positivo? È sempre considerato Sì, positivo. sì. È Ecco, come la chiesa qui va della. fatta una distinzione. Quando parliamo di aspetti negativi, anche gli aspetti negativi hanno aspetti positivi. Vuol dire, se tu proteggi la vita di tuo figlio da un pericolo, eliminando quel pericolo, quella eliminazione è un atto di Gevurah. È un atto che è l'opposto di Chesed, Certo, ma fa parte del Chesed. È dell'amore verso positivo al suo cuore, anche se l'atto stesso è è negativo. teoricamente negativo. Quindi quello che si sta dicendo è effettivamente che non c'è bianco e nero. Tutto il mondo esiste su varie, diciamo così, modalità che sono difficilmente definibili in maniera assoluta. Stiamo parlando di Gevurah, come si esprime all'interno del Chesed e spinto dal Chesed, voluto dal Chesed, voluto dall'amore. L'altra volta abbiamo parlato della Gevurah negativa proprio. E qui invece parliamo di quest'altro aspetto. Quindi ci sono sempre moltissime modalità. Si citano dei versetti del Teilim dove è scritto, per esempio, Ohavei Hashem Sinura, coloro che amano il Signore odiano il male. Quindi cosa fanno? Amano o odiano? È la stessa cosa. L'amore verso il Signore è definibile anche come l'odio verso il male. È una causa-effetto. Oppure David HaMelech dice in un altro versetto, Tachlit Sina Senetim, li odio un odio assoluto. Una frase molto molto forte, che è sempre un'espressione di amore verso Dio. Poi arriviamo alla terza sefirah, che è la sefirah del Chesed, e della Tiferet, scusate. Tiferet significa armonia e bellezza. Cosa c'è, cosa si intende per bellezza dell'amore? Vayigbali bo bedarkei Hashem. Kol ha-yofi u-mashkia bedarkei ha-Torah va-mitzvah. E cioè, proprio per questo amore, proprio per questo chesed, la persona investe gli aspetti più belli, più armoniosi, più qualitativi del proprio essere verso HaKadosh Baruch. Cioè, se lo amo, il meglio di me lo do a lui. Devo fare tante cose nella vita, non posso esimermi da tante responsabilità, e le faccio. Ma quando mi occupo di qualcosa per volontà di HaKadosh Baruch Hu, lo faccio con molto più trasporto. E quindi lo faccio con molta più bellezza, con molta più armonia, con molto, un livello molto alto di qualità. Lo possiamo vedere, ognuno può porsi queste domande poi quando fa un po' di introspezione. Dice, quando io faccio una cosa che faccio proprio perché lo voglio fare, è ovvio che lo faccio in una determinata maniera. Quando faccio ciò che va fatto perché non posso togliermi da quella responsabilità, però non lo faccio con lo stesso trasporto e di conseguenza anche la qualità dell'azione non è del livello che potrebbe essere e con cuore come potrebbe essere se lo facessi proprio per trasporto, se lo facessi per convinzione assoluta, per amore, per affetto, allora è un'altra cosa. Allora questo diventa come un tipo di prova, un'autoprova che la persona si pone la domanda, dove sto? Dove sta il mio cuore? Vedi le azioni. È facile capire dalle dal modo che vengono messe in atto le azioni dove sta il cuore. Questo si esprime nel Tiferet, nella bellezza, nella qualità. Poi abbiamo Hod. Hod abbiamo detto splendore, che è legato anche a Anava, umiltà, come abbiamo spiegato a lungo la scorsa volta e si può vedere la lezione numero 3. Nel nostro contesto del Chesed, Hod Shebe Chesed, l'umiltà è qualcosa in realtà che produce, la vera umiltà produce una fermezza, una forza. Perché? Perché nel momento in cui io sono umile, nel senso metto il mio ego da parte, metto il mio io da un lato, perché lo metto da un lato? Per cercare di rappresentare qualcosa di più grande di me, per cercare di essere un pochino più, scusate, trasparente, che la luce di Hashem possa passare attraverso di me come se fossi una finestra e non qualcosa che offusca, che blocca questa luce. Allora se io rappresento questa grande cosa, se io rappresento qualcosa, un messaggio molto molto più grande di me, ho anche la forza di essere fermo nelle mie convinzioni, per i miei principi. Se si basa solo sul mio io, il mio io alla fine è debole. Alla fine sono solo un essere umano. Davanti a un mondo intero è difficile. Mentre invece, quello che parlavamo prima, che odia quelli che odiano il soggetto del tuo amore, il Hod è un'espressione simile in questo senso, e cioè il essere fermo nelle proprie posizioni per i propri principi positivi divini, anche davanti a delle forze che vorrebbero far rompere questa tua convinzione, che vorrebbero in qualche maniera andare ad incidere in maniera negativa in questo tuo legame. Hod Shebechese significa è un amore che è trasportato da una profonda umiltà e quindi sembra un contrasto, ma invece è, in realtà è causa-effetto e quindi una grande fermezza, una grande forza. Arriviamo poi alla penultima delle Sefirot, Yesod. Yesod significa fondamenta, basi, ed indica nella mistica il legame di base, quindi tutto esiste perché c'è un legame di base, se non c'è un legame di base non c'è tutto questo rapporto, e questo legame di base è un legame b'mesirut nefesh la Torah b'mitzvot, cioè una prontezza di se fosse necessario anche sacrificarsi, non necessariamente il sacrificio ultimo, cioè il totale sacrificio della propria esistenza, ma anche piccoli sacrifici, cioè sacrificare la propria volontà mondana per la volontà divina di Hashem. Su questo si basa il legame di base. E poi abbiamo la Sefirah del Malchut, e abbiamo già spiegato nella scorsa lezione come Malchut rappresenta la parola, il regno significa Malchut, ma rappresenta nell'esperienza umana comune, rappresenta la parola, e la parola dell'amore, la parola del Chesed significa che cosa? Significa il più possibile esprimere, pronunciare parole di Torah e Tefilah. Proprio pronunciarle, non solamente approfondirle, pensarle, viverle, ma anche addirittura quando abbiamo la possibilità di esprimere, pronunciare con la bocca le parole di Torah e di Tefilah, che sia nello studio, che sia nel Teilim o nella Tefilah e così via. Questo chiude il ciclo di tutta la Sefirah di Chesed, così come quindi l'amore verso Hashem, dell'anima divina, così come è segnata da tutte le sette altre Sefirot, nel percorso che abbiamo appena visto. E questo è il significato del versetto che abbiamo citato nella prima parte di questo corso, dove abbiamo citato quanto è scritto nella Torah, Usfartem lachem mimachorat Shabbat, conterete per voi, che è una frase strana, perché quando dice Usfartem significa voi conterete, e allora è come se dicesse voi conterete per voi. Cosa è il significato di questo per voi? Abbiamo visto che ci sono altri casi dove è scritto per voi e ci sono dei motivi più chiari, come per esempio prenderete per voi il lulav. Ci insegna che il lulav deve essere di propria proprietà per poter fare la mitzvah. Ma qui cos'è il lachem? Cos'è il per voi? Il conteggio è certo che è vostro. Non è una cosa che puoi acquistare il conteggio, devi contare. Usfartem lachem significa conterete il vostro io. Cioè la Sfirat HaOmer è non solamente contare il conteggio dei giorni che passano, ma di contare ogni sefirah nel proprio io. Scandire le proprie componenti. Scandire ogni componente dell'anima, come abbiamo visto degli esempi, e a quel punto la parola usfartem e conterete assume anche un altro significato che è sefirut ubehirut, cioè sefirut come zaffiro, una cosa chiara, una luce, una cosa che illumina. Quindi renderete raffinato il vostro lachem, il vostro io. Usfartem lachem, raffinate voi stessi. Ovviamente questo è inteso in maniera allusiva, non nel senso letterale. Non proprio queste parole esatte, però. Inoltre abbiamo visto anche che il Omer, cioè quella misura d'orzo che veniva portata al Beit HaMikdash, secondo giorno di Pesach, e da quel giorno si inizia a fare il conteggio dell'Omer, l'Omer andava setacciato per 13 volte per ottenere la qualità più elevata in assoluto del fior di farina. Perché 13? A livello spirituale si lega a quello che abbiamo letto stamattina nel Tachanun, Le 13 midot arachamim, i 13 attributi di misericordia. Questo quando può avvenire? La Torah, quando dà l'indicazione del momento in cui va fatto l'offerta dell'Omer e poi lo stesso giorno inizia il conteggio dell'Omer, come indica la data, non dice il 16 di Nisan, dice l'indomani dello Shabbat. Ma lo Shabbat non inteso come il sabato, ma quale giorno? Il giorno di Pesach. Il riposo del Moed è indicato con il termine Shabbat. Mimachorat Shabbat, l'indomani di questo riposo bisogna contare l'Omer, perché è indicato in questa maniera strana, perché per poter contare l'Omer nel senso spirituale, per poter raffinare il proprio io, bisogna fare uno Shabbat. Uno Shabbat significa una cessazione, un riposo, cessare di pensare in termini mondani. Quindi staccarsi anche staccarsi dalla mentalità materialista, mondana, e quindi c'è prima un distacco. Se tu inizi a contare, quindi a fare tutto questo percorso, prima di porre una base di distacco, di separazione da quello che è il modo normale e naturale di pensare e di porsi verso altre persone e verso la realtà che è intorno a noi, allora non hai davvero iniziato. Prima devi creare il distacco, che si chiama Shabbat, cessazione, riposo, e poi mimachorata Shabbat all'indomani, cioè successivamente, può iniziare il percorso di raffinamento, può iniziare questo percorso che si chiama Sheva Shabbatot, sette settimane, perché come abbiamo visto le sette sefirot, e alla fine di questo versetto è scritto Temimot Tiena. Queste settimane saranno intere. Se sono sette, certo che sono intere, perché la Torah deve dire sono intere. La Torah sta dicendo, se tu fai la tua parte, allora dall'alto HaKadosh Baruch Hu ti assicura che temimot, che lui ti aiuterà a far sì che siano integre e perfette. Quindi, come dicevamo prima, il tuo percorso che va fatto fa sì che dall'alto ci sia un aiuto, come si dice aiutati che Dio ti aiuta, e cioè tutto questo è sempre poi così, da parte tua fai la tua parte, poi dall'alto ti viene aperto ancora di più. Questa cosa si può ricollegare anche a quello che hai detto ieri, cioè che il cinquantesimo giorno, cioè si conta fino al 49° giorno, e il 50° giorno... Sì, bravissimo, ripeto perché non si sente, si collega a quello che abbiamo studiato l'altro giorno, e in quanto è scritto sulla Torah, conterete 50 giorni, ma di fatto contiamo 49 giorni, e il 50° giorno è Shavuot. Allora, perché c'è scritto conterete 50? Perché contare 50 se contiamo in realtà 49, non contiamo 50. Allora il Baal Shem Tov spiegò appunto che tu quando conti 49 arrivi al 50°, quel 50° diventa di nuovo numero 1 per un nuovo percorso di 49. In altre parole, da una parte ti viene donato qualcosa di più elevato, il 50° livello è considerato Shara Hamishim, qualcosa di molto elevato a cui non puoi arrivare da solo, puoi arrivare al 49° e poi ti viene donato il 50°, ma in realtà questo 50° è anche la possibilità di riniziare il percorso in maniera ancora più approfondita. Ecco perché anche chi ha fatto il conteggio dell'Omer l'anno scorso lo deve rifare quest'anno, perché bisogna crescere. Todarabà a tutti quanti.